L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, come sempre vi dobbiamo raccontare i sette fatti più importanti dell'ultima settimana che è cominciata sabato scorso 13 dicembre e che si è conclusa ieri. I servizi, le interviste e i commenti che ascolterete sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. È il giorno tanto atteso e persino segnalato da un implacabile conto alla rovescia nel piazzale della stazione centrale di Milano dell'alta velocità. Ormai ci vuole un'ora o poco più per andare in treno da Milano a Bologna. Per Radio 24, sul primo di questi treni, che è naturalmente affollato di VIP e soprattutto di autorità politiche, treno varato dall'amministratore delegato di Trenitalia Moretti con una bottiglia di spumante, c'era il nostro Enrico Pagliarini. Ecco allora il suo servizio nel GR delle 19 di sabato. Sono le 16.18 quando il treno Freccia Rossa, che inaugura ufficialmente il tratto ad alta velocità Milano-Bologna, parte dalla rinnovata stazione di Milano. 18 minuti dopo il treno viaggia a 300 km orari, a 10 anni dall'inizio del progetto e a 8 dall'avvio dei lavori. 182 km di ferrovia costati quasi 7 miliardi di euro. Il gruppo Ferrovie dello Stato vi dà il benvenuto a bordo del Freccia Rossa per il viaggio inaugurale ad alta velocità tra Milano e Bologna. Il tempo di percorrenza sarà di 1 ora e 5 minuti. Un viaggio inaugurale interrotto però da una fermata improvvisa dopo Parma e 4 minuti di ritardo sull'arrivo a Bologna, che domani dovrebbe invece essere raggiunta in 1 ora e 5 minuti. I treni Eurostar saranno 51 al giorno tra Milano e Roma, uno ogni quarto d'ora e circa la metà fermerà anche a Bologna e Firenze. All'inaugurazione è presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, il commissario europeo ai trasporti Tajani, il sindaco di Milano Moratti e il presidente della regione Lombardia Formigoni. Naturalmente anche i vertici delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato Moretti e il presidente Cipolletta. Davanti alla stazione di Milano c'è stata oggi una manifestazione dei comitati NOTAV della Val di Susa, alla quale però hanno partecipato poche decine di persone. Domenica è il primo giorno effettivo per la Freccia Rossa, ci sono dei treni per così dire veri, soprattutto con passeggeri veri in carne ed ossa e paganti. Sentiamo allora com'è andata. Andrea Malana del Sole 24 Ore prova in prima persona l'alta velocità. Dopo i brindisi con le autorità e i discorsi retorici di sabato, il collegamento ferroviario in 1 ora e 5 da Milano a Bologna ha affrontato la prova di passeggeri veri. Abbiamo fatto un test andata e ritorno. Il Milano-Napoli delle 10.30 è arrivato a Bologna con un minuto d'anticipo alle 11.34. L'ETR 500 messo in servizio una decina d'anni fa e trasformato 2 anni fa in Eurostar alta velocità non è ancora stato ridipinto nei nuovi colori Freccia Rossa, ma ha ugualmente sfrecciato a 300 all'ora. Le carrozze di seconda classe erano quasi piene nonostante l'aumento dei prezzi, 33,30 € in seconda classe acquistando via internet, 35 € in stazione. Non sono stati altrettanto fortunati i passeggeri, molto meno numerosi, partiti alle 13.24 dal capoluogo emiliano per Milano. Per un guasto al locomotore il treno ha viaggiato sulla nuova linea a 200 all'ora invece che a 300, arrivando a Milano in poco più di 1 ora e un quarto, ovvero con 12 minuti di ritardo. Ed è solo il primo giorno, ha commentato uno dei passeggeri della carrozza 6, la carrozza dove abbiamo viaggiato e che, purtroppo, aveva entrambe le toilette fuori uso. L'alta velocità in Italia avanza, ma i livelli di servizio tedeschi sono ancora lontani. I test e le verifiche sul campo sull'effettivo funzionamento dell'alta velocità proseguono anche nei giorni successivi. In pratica, per dirla insomma così, Radio 24 non si fida del buon esito dell'alta velocità. Scherzi a parte, lunedì Enrico Pagliarini e Roberta Pellegatta sono protagonisti di una gara, di una sfida incrociata. Un viaggio Milano-Bologna, uno in macchina e l'altro in treno. Vediamo chi ha vinto, ecco il resoconto che hanno fatto i nostri due colleghi nella serata di lunedì. Treno ad alta velocità o automobile per la Milano-Bologna? Radio 24 ieri ha fatto la prova. Ore 11.45, partenza dalla redazione di Radio 24. Roberta Pellegatta in taxi verso la stazione centrale per il treno ad alta velocità delle 12.30. Enrico Pagliarini in automobile. Chi arriverà sotto le due torri prima spendendo meno? Per uscire dal traffico di Milano, rallentato dalla pioggia, impiego circa mezz'ora. Le 12.15 sono in autostrada, ma la pioggia mi obbliga ai 110 orari. Piacenza, ore 12.45, smette di piovere e posso tornare al normale limite dei 130. Ancora in vantaggio rispetto al treno. Un treno partito puntuale alle 12.30, con una velocità moderata per i primi 20 minuti, giusto per illudere Enrico, ma dopo Lodi ecco l'accelerazione. Il treno si trasforma in una freccia che attraversa la pianura padana, non una freccia rossa purtroppo. I nuovi treni rosso-argento, ci dicono, per ora sono assicurati solo per le corse non stop, quelle che arrivano direttamente a Roma. Alle 13.10 sono quasi a Parma ed ecco che dalla nuova ferrovia che corre parallela all'autostrada sbuca e mi sorpassa il treno a 300 km all'ora. Infatti in un attimo siamo a Bologna, ma non scendiamo perché il treno rallenta, poi si ferma. Una sosta tecnica normale, ci dicono, tale però da far ritardare di 7 minuti l'arrivo. 13.42 invece che 13.35, non poco per una corsa di 1 ora e 5 minuti. Alla fine arrivo nel centro di Bologna alle 13.55 con una spesa di 35 euro, escludendo i trasporti da e per la stazione ed eventuali promozioni di Trenitalia. La mia auto invece mi porta a Bologna poco dopo, parcheggio e alle 14.29 sono in Piazza Maggiore. Roberta mi sta aspettando al freddo da 34 minuti e meno male che ci sono delle belle vetrine di Natale. Con un'auto di media cilindrata ho speso meno di 30 euro, 11.40 di autostrada, circa 18 di carburante escludendo costi di manutenzione ed usura e il parcheggio. Conclusione, io non avrei mai fatto cambio con Enrico. Caro no, il treno è più veloce e comodo, anche se alla seconda toilette non funzionante qualcuno ha detto la prossima volta in macchina. Fin qui tutto bene dunque, però l'alta velocità crea anche dei problemi. Ci trasferiamo infatti a Napoli dal corrispondente Enzo Danna. Questo è il suo servizio sempre nella giornata di lunedì. Era partito da Roma alle 7.25 e avrebbe dovuto raggiungere Napoli Centrale 1 ora e 20 dopo. Poco prima dell'ingresso nella stazione di Gricignano d'Aversa, nel Casertano, il treno si è fermato per un guasto al pantografo, lo strumento che permette di prelevare l'energia dalla linea elettrica. Alcuni passeggeri, tra cui avvocati attesi in tribunale, un medico di un ospedale, hanno chiesto di scendere per raggiungere a piedi la vicina stazione e al no del capotreno vi sono stati momenti di tensione. Sul posto è intervenuta la polizia. Poco dopo, un altro treno dell'alta velocità partito da Roma e diretto a Napoli si è dovuto fermare su un binario parallelo a quello occupato dal primo convoglio. Dopo l'intervento dei tecnici, la linea è stata ripristinata e intorno alle 11 due treni sono ripartiti per Napoli Centrale. È sempre lunedì, ormai giorno decisivo per i treni in questa settimana. C'è un altro fronte di disagi e di polemiche che si arricchisce anche di contenuti politici. Infatti per molti dei 350.000 viaggiatori pendolari della Lombardia è davvero una giornata da dimenticare. Si registrano 3 treni soppressi, centinaia di ritardi. La conclusione più immediata è che se da un lato si tende a privilegiare l'alta velocità, dall'altro il problema è proprio quello di trascurare i pendolari. Protesta persino il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, questa è la sua voce a Radio 24 martedì. Ieri la situazione è stata molto pesante, oggi nel complesso possiamo registrare un leggero miglioramento, ma la situazione di oggi non è ancora soddisfacente. Sappiamo che dal punto di vista tecnico l'alta velocità può convivere con dei servizi per i pendolari adeguati e capaci di rispondere alla domanda dei 500.000 pendolari lombardi. La nostra azione mira non a mettere in scena proteste, ma a costringere alla realizzazione di un servizio adeguato. Certo, ove proseguisse questo stato insoddisfacente, siamo pronti alle forme di protesta più clamorose. Tutto questo, insomma, per dirvi che Ferrovie dello Stato conosce benissimo la situazione. È inutile che metta in campo una lamentela nei confronti delle regioni che non pagherebbero, perché sa che siamo impegnati insieme ad ottenere i fondi necessari da parte dello Stato. Per il momento la disputa sui pendolari si ferma a quello che la Regione Lombardia annuncia giovedì, e cioè che è intenzionata e pronta a firmare entro l'anno, almeno questa è la speranza, il nuovo contratto di servizio con Trenitalia, che prevede un aumento dei fondi del 50%, quindi 60 milioni in più rispetto agli attuali 180. L'ottavo giorno. Domenica. In Iraq è in visita per l'ultima volta Bush, ormai presidente uscente degli Stati Uniti. Apro una parentesi tra proposito, è stato emblematico 2 giorni fa vedere sulle TV americane una conferenza stampa di Bush, ma con un riquadro in alto sul teleschermo che avvertiva che era ormai imminente un intervento di Obama, e quando il neopresidente è apparso a Chicago la linea è andata subito da quelle parti. Ma torniamo a Bush a Baghdad, quello che gli capita fa subito il giro del mondo e nel suo piccolo, secondo me, diventerà un episodio storico. Sentiamo Sergio Nava. Sono state un paio di scarpe taglia 44 a rovinare in un finale tragicomico l'ultima visita di George Bush in Iraq. Bush non ha praticamente fatto in tempo a prendere la parola nella conferenza stampa col premier Nouri al-Maliki quando Muntazer al-Zaidi, giornalista della rete sunnita al-Baghdadia, si è alzato, ha urlato al presidente uscente e il bacio dell'addio cane e gli ha tirato in rapida sequenza le sue 2 scarpe. Un gesto d'insulto secondo la cultura araba. Bush ha evitato la prima scarpa solo grazie a un prodigioso riflesso, mentre sulla seconda è stato al-Maliki a tentare la difesa. Strano finale per la quarta e super segreta visita di Bush in Iraq. Lontani anni luce sono i tempi dell'annuncio di missione compiuta. Da gennaio toccherà a Barack Obama mettere la parola fine alla lunga stagione irachena. Non finisce qui la saga di Muntazar al-Zeidi, che diventa subito una star. Tra poco ci torneremo. Adesso però seguiamo ancora Bush nella sua missione, lunedì tappa delicatissima in Afghanistan. Cristina Balotelli. A Kabul la conferenza stampa di Bush e Karzai si svolge senza fuori programma, come accaduto invece ieri a Baghdad. Nessun lancio di scarpe, stavolta giornalisti disciplinati, a differenza dei colleghi iracheni, che si rivolgono al presidente americano chiamandolo Sua Eccellenza, come suggerito dal portavoce di Karzai. L'imprudente reporter della TV irachena Al-Baghdadia, che ieri ha lanciato le sue scarpe contro Bush insultandolo, è ancora trattenuto dalle forze di sicurezza. La rete Al-Baghdadia ha chiesto alle autorità irachene di liberare il giornalista, in rispetto della democrazia e della libertà di espressione che il nuovo regime e le autorità americane hanno promesso al popolo iracheno. Bush è giunto in Afghanistan in piena notte, ha incontrato centinaia di soldati nella base aerea di Bagram, prima di recarsi al palazzo presidenziale per un colloquio con Karzai, al quale ha assicurato che gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare nel paese e hanno chiesto agli alleati di fare altrettanto. Come promesso, torniamo dal nostro Muntazar al-Zeidi. Adib Fateh Ali ci racconta la reazione del mondo arabo. Ecco il suo servizio andato in onda martedì. 10 milioni di dollari, è questa la cifra che un ricco saudita è disposto a pagare pur di avere una delle scarpe che sono state lanciate contro il presidente degli Stati Uniti, George Bush. Lo riferisce la TV Al-Arabiya, che ha intervistato il diretto interessato. La scarpa vale più di tutti i miei beni e la lascerò in eredità ai figli come simbolo della libertà, ha detto lo sceicco, che spiega la sua offerta con l'impagabile soddisfazione di vedere restituita una parte della dignità araba calpestata dall'attuale amministrazione USA. Nel frattempo la stessa TV svela che l'autore, prima di compiere il clamoroso gesto, avrebbe scritto ad un suo amico di progettare un'azione che restituirà l'onore alla mia gente e mi farà entrare nella storia. Avete capito, la scarpa contro Bush è il filo conduttore di questa parte dell'ottavo giorno. Ma non possiamo certo trascurare Obama, anche se forse la notizia più importante dall'America arriva ieri e riguarda il settore dell'auto. Il Tesoro americano infatti annuncia 13,4 miliardi di dollari per risanare le tre sorelle di Detroit in grande difficoltà, le sorelle dell'auto, Ford, Chrysler e General Motors. Ma torniamo ad Obama, sentiamo l'aggiornamento di Sergio Nava di lunedì. Nel giorno della sua nomina formale a 44esimo presidente eletto americano, Barack Obama festeggia con un'agenda fittissima di impegni. Proprio oggi i 538 grandi elettori scelti il 4 novembre dal popolo americano imbucano ufficialmente il loro voto, un atto puramente formale che confermerà i 365 voti ottenuti da Obama contro i soli 173 del rivale John McCain. A Chicago intanto il prossimo presidente americano si trova riunito con la sua squadra di sicurezza nazionale e politica estera, che comprende Hillary Clinton, Bob Gates e Janet Napolitano. Più tardi, nella notte italiana, Obama farà l'ennesima presentazione di due nuovi membri del proprio gabinetto. Questa volta toccherà al prossimo segretario all'energia Stephen Chu e alla responsabile per le politiche ambientali della Casa Bianca Carol Browner. Chu, un sino-americano già Nobel per la fisica, sarà l'uomo chiave della nuova amministrazione per concretizzare la tanto attesa rivoluzione verde. È infatti un esperto in energia solare e biomasse, benché non sposi in toto l'integralismo dell'ex vicepresidente Al Gore. Verso il petrolio ha un atteggiamento di compromesso, lo considera ormai superato come fonte energetica, ma è perfettamente capace di dialogare con chi lo produce e commercializza. Obama, che in questi giorni è anche proclamato uomo dell'anno da Time, ma credo che nessuno avesse dubbi in proposito, prosegue giorno dopo giorno la scelta dei suoi uomini. Ormai la squadra di governo è fatta ed ora lo attende qualche giorno di vacanza alle Hawaii. Non possiamo però non citare, tra le tante cose fatte da Obama in questi giorni, in queste ultime ore, almeno la scelta del reverendo Dick Warren, noto per le sue dure posizioni contro i gay, per recitare la preghiera del 20 gennaio, il giorno dell'inaugurazione dell'insediamento a Washington. Detto che rimane ancora in piedi la grana Blagojevich, il governatore dell'Illinois democratico, accusato di fare compravendita con il seggio che Obama lascerà inevitabilmente vacante al Senato. E detto anche che ieri alla veneranda età di 95 anni è morto Mark Felt, la gola profonda del Watergate. Chiudiamo questa ricca pagina americana tornando alle ormai celeberrime scarpe lanciate contro Bush, anzi all'autore del gesto. Sentiamo Cristina Balotelli mercoledì. La popolarità di Muntadhar al-Zeidi, il giornalista che ha lanciato le sue scarpe contro il presidente presidente Bush, ha ampiamente varcato i confini nazionali. Al-Zeidi è diventato un eroe e un modello in tutto il mondo arabo. Il suo gesto sta scatenando polemiche e iniziative di ogni tipo. La più originale è stata avviata in Algeria, dove alcuni calzaturifici hanno deciso di creare una linea di scarpe che porta il nome del giornalista, convinti che le Al-Zeidi diventeranno il sogno di migliaia di algerini. Nell'aula del Parlamento iracheno invece è nata una violenta discussione sulla possibilità di scarcerare o meno il giornalista iracheno, in seguito alla quale lo speaker dell'Assemblea ha annunciato le sue dimissioni. In Pakistan si sono svolte manifestazioni contro la detenzione del giornalista a Lahore e Karachi. In Giordania decine di parlamentari e anche alcuni ministri si sono alzati in piedi durante una seduta dell'Assemblea per mostrare il loro rispetto e sostegno a Muntadhar e dire che la Giordania è uno dei principali alleati di Washington, da cui riceve annualmente $500 milioni. Lunedì. Giornata di passione e di apprensione ancora una volta per il maltempo. Dopo la piena del Tevere della settimana scorsa, la soglia di attenzione rimane molto alta anche nella capitale, ma non solo. Cominciamo dal quadro della situazione di domenica scorsa, firmato da Laura Bettini. Nella capitale ieri sera è ricominciato a piovere. La protezione civile tiene sotto stretto monitoraggio il Tevere in vista di un peggioramento delle precipitazioni in mattinata. Ieri gli incursori della Marina Militare hanno fatto saltare parte di uno dei battelli che si erano appoggiati all'arcate di Ponte Sant'Angelo con due esplosioni controllate, permettendo così all'acqua del fiume di defluire. Nel nord, fin da ieri, è tornata a cadere la neve in Piemonte, che è la regione più colpita, e in Val d'Aosta, ma anche in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e della Lombardia. A Venezia continuano i problemi per l'acqua alta. La marea ha toccato una massima di 116 centimetri. Al sud nevica sulla Sila Cosentina, mentre nel Cilento una ventina di abitazioni del borgo di San Severino di Centola, minacciate da una frana, sono state fatte evacuare. In Sicilia, due elicotteri della Marina hanno riportato a casa 20 abitanti di Linosa, bloccati a Porto Empedocle da una settimana a causa del mare mosso e del maltempo. Quello che ascolterete adesso invece è lo scenario lunedì mattina, nelle parole di Francesco Scarponi dell'Ufficio Meteo del Dipartimento della Protezione Civile. Siamo sotto l'influenza di un sistema perturbato piuttosto importante che reca nuvolosità diffusa su tutte le regioni centro-settentrionali e questa nuvolosità è accompagnata anche da precipitazioni piuttosto rilevanti. In particolare i massimi precipitativi ce li attendiamo sulle regioni di nord-ovest, ma anche successivamente su quelle di nord-est, e mi riferisco in particolare al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, nonché sulle regioni tirreniche centrali, in particolare sulla Toscana meridionale, sul Lazio, sino ad arrivare alla Campania settentrionale. In questo scenario avremo ancora delle nevicate a bassa quota sui settori alpini occidentali e a quote intorno agli 800-1000 metri sui restanti settori alpini. E veniamo a lunedì sera, questo è il bilancio nel servizio di Irene Privitera. La protezione civile prolunga lo stato di allerta. Fino a domani è emergenza in tutta la penisola. Nelle prossime ore si prevedono ancora nevicate, temporali, venti e mareggiate. I collegamenti fra Ischia e Napoli sono sospesi fino a domani mattina. La situazione più critica al nord si registra in Piemonte, dove è alto il rischio valanghe. Le scuole della provincia di Cuneo domani rimarranno chiuse e sono ancora oltre 50.000 le abitazioni prive di energia elettrica. Andrea Lazzari, responsabile protezione civile del Piemonte. La quota neve si è alzata da 800 a 1000 metri e ci aspettiamo sempre la perturbazione questa notte. Avremo neve per un ammontare di circa previsto 100 centimetri, quindi un altro metro di neve. Quello che è stato fatto stamattina, la chiusura di alcune strade per precauzione per possibile caduta di valanghe. Domani si dovrà chiudere altre strade. Nel Lazio allagate diverse abitazioni in provincia di Frosinone a causa dello straripamento di fiumi minori. Il livello dell'Aniene intanto è raddoppiato dalle 6 di stamattina alle 4 di oggi pomeriggio. Stazionario invece quello del Tevere. Chiudiamo gli aggiornamenti sul meteo con il servizio in onda martedì alle 13 di Monia Melis. Nuovo nubifragio nella notte su Roma, allagamenti nella zona di Trigoria e sulla via Laurentina, dove molti automobilisti sono stati bloccati da fango e acqua. Allagamenti anche in tutto il litorale laziale. A Ostia e Pomezia alcuni abitanti sono saliti sui tetti delle case e sono stati salvati dai vigili del fuoco con gli elicotteri. Sotto osservazione il Tevere e l'Aniene e i fiumi della zona, come spiega Luigi D'Angelo, dirigente della Protezione Civile. In particolare sono interessati i bacini del fiume Mignone, il Mata, il Fiora, l'Amiene, e quindi al momento le strutture operative, i vigili del fuoco e volontari di protezione civile stanno operando in particolare nella zona di Ostia e nella zona di Ostia Antica e poi lungo l'Amiene. In Piemonte, Val d'Aosta, resta alto il rischio valanghe. Oggi nel Cuneese le scuole sono rimaste chiuse per la neve. Apprensione anche a Torino per il Po, che ha superato i livelli di guardia. Resta il maltempo al sud, anche se nel Golfo di Napoli sono ripresi i collegamenti con le isole minori. Si viaggia comunque con difficoltà e ritardi per il forte vento di Scirocco. Ieri la situazione più critica per quel che riguarda il maltempo era ancora in Piemonte, dove comunque il rischio valanghe è sceso da 5, cioè molto forte, a 4. Forte. L'ottavo giorno. Martedì. Il governo interviene sulla vicenda di Eluana Englaro, non direttamente, ma con un pronunciamento che ha evidenti riflessi sul caso della donna che ormai da tanti anni si trova in coma vegetativo e in nome della quale il padre sta combattendo una battaglia, direi giuridica, etica e persino politica, difficile e logorante al tempo stesso. A parlare è il ministro del lavoro Sacconi, che ricordo ha la delega anche sulla sanità. Sentiamo Vanessa Colangiuli. Nutrire e idratare un malato grave non è un atto di terapia ma di assistenza e come tale non può essere sospeso. E questo è il senso del richiamo indirizzato a regioni e province autonome dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi, e che ribadisce il dovere di tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale a garantire nutrizione e idratazione nei confronti delle persone in stato vegetativo. Nella vicenda lunga e dolorosa di Eluana Englaro si apre così un altro capitolo. Un mese fa la sentenza della Cassazione aveva di fatto dato il via libera al padre della donna a sospendere l'alimentazione. Il sottosegretario alla salute Eugenia Roccella. Noi abbiamo parlato per tutti i malati in stato vegetativo e quindi per tutte le persone che sono a rischio di vedersi sottrarre appunto alimentazione e idratazione, che sono semplici gesti di cura che non possono essere sottratti a un malato. L'atto di indirizzo, spiegano dal Ministero, fa riferimento al parere del Comitato Nazionale per la bioetica e a una convenzione dell'ONU di 2 anni fa, ma non mette a tacere le nuove polemiche. Per Carlo Alberto De Fanti, il neurologo che da anni cura Eluana, con questo atto non si fa quel che si dovrebbe, applicare una sentenza di un tribunale della Repubblica Italiana. Il giorno dopo la presa di posizione di Sacconi non è che la tensione si stemperi sul caso, che rimane ancora molto delicato e intricato. Questo è il quadro alle 19 di mercoledì fatto da Paolo Panceri. Il braccio di ferro giuridico sulla vita e la morte di Eluana Englaro vede contrapposti il ministro della salute Maurizio Sacconi e la prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano. Da una parte il giudice Filippo Lamanna precisa che la casa di cura Città di Udine, dove Eluana Englaro dovrebbe essere trasferita, non rischia sanzioni se decidesse di sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiale. Lamanna, lo ricordiamo, nel luglio scorso aveva redatto il decreto della Corte d'Appello di Milano con cui Beppino Englaro era stato autorizzato a interrompere l'assistenza alla figlia. Ma il ministro Sacconi ribadisce esattamente il contrario, cioè che la struttura sanitaria friulana potrebbe avere conseguenze amministrative se sospendesse le cure mediche alla donna. La clinica aveva ribadito la disponibilità ad accogliere Eluana, ma l'amministratore delegato della struttura, Claudio Riccobon, aveva chiesto che i legali che tutelano la signora Englaro e la sua famiglia dimostrino che l'incursione del ministro Sacconi non intacca la validità del decreto che invece autorizza il protocollo assistenziale di distacco dall'alimentazione artificiale. E a proposito della disposizione di Sacconi, alcuni giuristi come Stefano Rodotà hanno parlato di ingerenza inaccettabile. Il provvedimento del ministro non è tale da determinare l'illegittimità del comportamento di una struttura che dovesse accogliere la volontà di Eluana Englaro attraverso la decisione del padre. Di fronte a questa nuova svolta si apre l'ennesima fase di stallo nella storia di Eluana Englaro dopo l'atto di indirizzo emanato dal ministro Sacconi. Per la Cassazione le direttive del ministro comunque non bloccano la sentenza, ma intanto la casa di cura Città di Udine, che si era resa disponibile ad ospitare la ragazza, rimette tutto in discussione. Sentiamo allora le parole dell'amministratore delegato Claudio Riccobone, che abbiamo già ascoltato rapidamente nell'ultimo servizio di Paolo Panceri. Eccolo nel GR delle 7 di ieri. Una struttura sanitaria su base volontaria in forma gratuita si rende disponibile a dare applicazione ad un decreto di Corte d'Appello ratificato dalla Corte di Cassazione, ormai inoppugnabile definitivo, ed un ministro della Repubblica cosa fa? Lancia intimidazioni cercando di colpire l'azienda nel suo interesse vitale. La casa di cura ribadisce la propria disponibilità nei confronti della famiglia Englaro, a patto però che la Regione Friuli Venezia Giulia si prenda la responsabilità di condividere questo percorso che noi riteniamo di civiltà e soprattutto di pietas. E sempre dalla giornata di ieri vi segnalo le parole durissime di Benedetto Della Vedova, che è un deputato del Partito delle Libertà, secondo il quale la vicenda di Eluana è il più grave caso di statolatria in Europa. La parola statolatria non è pronunciata a caso da Della Vedova, perché era stata utilizzata dalla Chiesa il giorno prima nei confronti della Spagna di Zapatero, Chiesa tra l'altro che ieri ha polemizzato anche con la Francia per la proposta all'ONU di depenalizzare il reato di omosessualità. Ma sentiamo sulla vicenda spagnola Paolo Panceri. Monsignor Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi del Vaticano, non usa giri di parole e parte dalle cosiddette leggi etiche del governo Zapatero, tra cui l'introduzione nelle scuole dell'educazione alla cittadinanza, l'educazione civica resa obbligatoria per tutti gli studenti. A questo proposito, Monsignor Amato parla di una tale ingerenza dello Stato nella vita dei cittadini da far pensare alla statolatria. In un'intervista alla rivista Il Consulente Re, il Presule esprime questo duro giudizio sulla Spagna, anche se aggiunge fortunatamente possiamo contare su una chiesa spagnola molto reattiva che ha dato una risposta pubblica e chiara. Ma la questione per Monsignor Amato non riguarda soltanto la penisola iberica. Il problema, secondo l'esponente della Santa Sede, è che in tutta Europa si sta introducendo la categoria della cosiddetta biopolitica. Lo Stato cioè entra sempre più nella vita personale di ognuno. Questo significa, ad esempio, che lo Stato obbliga le famiglie a scegliere determinate scuole con determinate materie, non di istruzione ma di indottrinamento. Mercoledì. Nella politica italiana scoppia la bomba Napoli. Nella settimana infatti in cui si svolgono le elezioni regionali in Abruzzo, l'attenzione in realtà è catalizzata proprio dalla Campania. E allora nel nostro resoconto partiamo da Napoli e da quello che avviene mercoledì. Enzo Danna. Un vero e proprio terremoto giudiziario quello che ha investito il comune di Napoli. 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nella delibera del Global Service, un appalto da 400 milioni di euro per lavori pubblici e manutenzione di strade mai partito, per la fuga di notizie sull'indagine. In carcere l'imprenditore Alfredo Romeo, che secondo i magistrati avrebbe organizzato un comitato di tecnici, professionisti, assessori e pubblici funzionari corrotti che gli garantivano appalti pubblici attraverso bandi di gara blindati. Agli arresti domiciliari, tra gli altri, gli assessori della giunta Iervolino Ferdinando Di Mezza e Felice Laudadio, già sospesi dall'incarico, e gli ex assessori Enrico Cardillo e Giuseppe Gambale. Nell'inchiesta risultano coinvolti anche i parlamentari Italo Bocchino del PDL e Renzo Lusetti del PD, per i quali è stata chiesta alla giunta della Camera l'autorizzazione a procedere. Il sindaco di Napoli, che non viene toccato dall'inchiesta, per ora rimane al suo posto e ha deciso di avviare un confronto con i partiti della maggioranza, quindi si è recato a Roma per incontrare il segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni. Non ci sono arresti però soltanto in Campania, se ne registrano anche in Basilicata e in Abruzzo. Entrambe le regioni sono scosse da azioni importanti e violente della procura. Cominciamo da Potenza con il servizio di martedì di Valentina Furlanetto. Nuova bufera giudiziaria in Basilicata. L'amministratore delegato di Total Italia, Lionel Liva, è stato arrestato oggi nell'ambito di un'inchiesta della procura di Potenza su tangenti e appalti per l'estrazione del petrolio in Basilicata. Oltre a lui sono finiti nell'inchiesta anche un deputato del PD, Salvatore Margiotta, il sindaco di Gorgoglione in provincia di Matera, Ignazio Tornetta dell'Udeur, e un'altra decina di persone, fra le quali l'imprenditore Francesco Ferrara. Secondo l'accusa, Ferrara avrebbe promesso 200.000 euro al deputato del PD Margiotta in cambio di un suo interessamento per favorirlo, fornendogli informazioni e facendo pressioni sui dirigenti della Total, società titolare di una delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi della Val d'Agri. In generale, dalle indagini emerge un patto corruttivo tra i dirigenti della Total e gli imprenditori interessati agli appalti per le estrazioni. E veniamo all'Abruzzo, anche in questa regione scattano le manette, ma prima ricordiamo quello che è successo lunedì, cioè il risultato finale delle elezioni regionali del Dopo del Turco. Da Pescara il ragguaglio di Stefano Totoro. Gianni Chiodi è il nuovo presidente della regione Abruzzo. Ha vinto la coalizione di centrodestra, come molti avevano previsto, con il 48% dei consensi. Ha perso Carlo Costantini dell'Italia dei Valori, sostenuto dal PD e dalla sinistra radicale. Ha ottenuto il 42% dei voti. Forte il peso dell'astensionismo. A votare è andato soltanto un elettore su due, il 52% degli aventi diritto. Il neopresidente commenta così il suo risultato. È chiara indicazione del fatto che qualcuno più di altri è riuscito a ispirare fiducia. La metà degli abruzzesi non ha votato e questo è l'unico cruccio di questa straordinaria campagna elettorale. Soddisfatti i leader del Popolo delle Libertà, che hanno sempre considerato l'appuntamento elettorale abruzzese un test importante anche per il governo. Serve una riflessione, dicono dal Partito Democratico, che in Abruzzo ha perso più del 10% dei consensi, forse anche per il terremoto giudiziario che ha decapitato la giunta guidata da Ottaviano Del Turco. E seppur nella coalizione perdente, il risultato ottenuto dall'Italia dei Valori è raddoppiato rispetto alle politiche del 2008, attestandosi attorno al 15%, il leader Antonio Di Pietro. Quei partiti che non sono né carne né pesce, non decidono né da una parte né dall'altra, che tra una commissione e una, ma anche non si decidono cosa fare, alla fine vengono puniti. In contemporanea con la vittoria di Chiodi, però, l'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, finisce agli arresti domiciliari all'interno di un'inchiesta sulle tangenti. Nell'interrogatorio di giovedì D'Alfonso nega ogni addebito. Intanto l'inchiesta prosegue e noi invece riascoltiamo un approfondimento di mercoledì sulla vicenda, ma non soltanto, firmato da Roberto Galullo. Non solo appalti cimiteriali agli amici e viaggi gratis in cambio di promesse su grandi lavori. Pescara non ha fatto neppure in tempo a riprendersi dall'arresto del sindaco Luciano D'Alfonso e dal coinvolgimento del patron di Air One, Carlo Toto, ed ecco emergere nuovi filoni di indagine. Mentre infatti la giornata di ieri ha svelato solo particolari sulle decine di imprenditori costretti a versare piccole somme per ottenere appalti e lavori, si scopre che in realtà la procura sta indagando su altri due filoni, la gestione delle reti idriche e la depurazione delle acque reflue. All'orizzonte inoltre una terza inchiesta, quella che la procura sta curando da quasi 3 anni, relativa alle risorse per la riqualificazione urbana. A quanto si vocifera tra i corridoi del Palazzo di Giustizia, nelle 1300 pagine consegnate da tempo dalla polizia giudiziaria ai magistrati, ci sarebbero tutti i nomi che sono emersi in questi giorni, ma i cognomi a sorpresa non mancheranno. Il partito maggiormente colpito dalla tempesta giudiziaria di questi giorni e con la quale deve evidentemente fare i conti è il PD. Ieri a Roma si è riunita la direzione del partito. A seguire i lavori per Radio 24 c'era Andrea Viali. Ecco il suo intervento in diretta nel GR delle 19. La sconfitta elettorale in Abruzzo, i rapporti interni, ma soprattutto la questione morale dopo la bufera giudiziaria di Napoli in primo piano nella riunione della direzione del Partito Democratico. Temi questi affrontati stamattina dal segretario Veltroni. La crisi economica e politico-morale che stiamo vivendo ci consegna oggi un'alternativa secca e drammatica, o innovazione o fallimento. O siamo capaci di accelerare l'innovazione politica e programmatica, ma più ancora radicando un partito nuovo, o rischiamo che il PD sia travolto. Ecco, questo è l'invito di Veltroni al partito Veltroni, che non ha risparmiato un attacco a Berlusconi. Non accettiamo, ha detto, lezioni da chi si è fatto leggi ad personam in tema di alleanza. Veltroni invece ha confermato le differenze con l'Italia dei Valori, con cui però ha aggiunto sono possibili alleanze a livello locale. Poco fa Veltroni ha ripreso la parola per la replica conclusiva. Il segretario del PD ha messo in guardia dai rischi di un ritorno al passato e ha invitato ad andare avanti con l'esperienza del Partito Democratico. L'unica alternativa possibile è alla destra, ha detto Veltroni. Prima delle sue conclusioni si sono susseguiti gli interventi dei diversi esponenti del partito, molto atteso quello di Massimo D'Alema, secondo il quale il progetto del PD in questi mesi si è appannato, il partito è un'amalgama fin qui mal riuscita, ma le condizioni politiche per il suo rilancio ci sono, ha detto D'Alema. L'ottavo giorno. Giovedì. Arriva la sentenza sul crack Parmalat. Inutile dire che l'attesa, soprattutto dei tanti risparmiatori beffati o nei casi peggiori che hanno addirittura visto andare in fumo tantissimi soldi, era molta. Sentiamo allora i dettagli con Giovanni Capuano. Mi sento beffata, presa in giro, fregandosene altamente dei risparmi di povera gente anziana. Sono passati 5 anni dal crack a Parmalat. Ora la sentenza del Tribunale di Milano dice che per il crollo dell'impero di Collecchio c'è un solo colpevole, Calisto Tanzi. Per lui condanna 10 anni di carcere, interdizione dai pubblici uffici e risarcimento di 380.000 euro alla Consob più altri soldi alle parti civili. Tutti assolti gli altri imputati, gli ex collaboratori e soprattutto i 3 dipendenti di Bank of America che secondo la procura avevano collaborato nella falsificazione dei dati patrimoniali. La sentenza cancella tutto per lo sconcerto dei legali dei risparmiatori. Sono 5 anni che i risparmiatori aspettano di vedere riconosciuti i loro diritti. Purtroppo noi usciamo ancora senza una soddisfazione economica. Perita l'audit ex Gran Thornton, 240.000 euro di sanzione e 455.000 euro di confische. Dei 12 patteggiamenti proposti, due sono stati respinti perché ritenuti non congrui. Ora il processo si sposta a Parma, dove Tanzi deve rispondere di bancarotta. Per i risparmiatori resta invece il filone che si occupa della responsabilità delle banche. Dal processo Parmalat passiamo ad altre notizie, come sempre importanti e in questo periodo non proprio bellissime, di carattere economico. Martedì, ad esempio, la Confindustria presenta le stime dell'economia italiana fino al 2010, stime tutt'altro che incoraggianti. Da Roma il servizio di Paola Cavadi. Per la prima volta dal dopoguerra, nel 2008 e nel 2009, l'Italia attraverserà un biennio di recessione. Per osservare i primi segnali di una ripresa dovremo attendere il 2010, quando il PIL tornerà a crescere di uno 0,7%. È la stima del Centro Studi di Confindustria sugli effetti della crisi in Italia, una stima particolarmente preoccupante per l'occupazione. 600.000 i posti di lavoro che andranno persi tra il secondo trimestre del 2008 e la seconda metà del 2009, un saldo negativo, meno 1,4%, che non si registrava dal 94. Spinto dalla crisi economica, il deficit pubblico torna a sfondare la quota del 3% del PIL. Nel 2009 l'indebitamento netto sarà del 3,3% e solo nel 2010 si registrerà un rientro al 3,1%. Per far fronte alla crisi, gli industriali rivolgono un appello a maggioranza, opposizione e forze sociali perché ritrovino l'unità. Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Non devono più prevalere le contrapposizioni, i conflitti, le divisioni. È per questo che noi chiediamo al governo di convocare un tavolo a cui partecipino tutte le forze politiche, le forze sociali per riuscire insieme a dare delle risposte concrete ai cittadini e alle imprese. Il fulcro dell'economia mondiale però rimane in questo periodo l'America, nel bene e direi soprattutto nel male. Mentre gli Stati Uniti devono fare i conti con il crack Madoff da 50 miliardi, martedì c'è una nuova mossa a sorpresa, ma neanche tanto, della Fed. Ci racconta tutto Sergio Nava. Un taglio senza precedenti che porta il costo del denaro negli Stati Uniti ai minimi storici e al livello più basso al mondo. Un taglio che, seppur atteso, ha riservato una sorpresa per le sue modalità. I tassi, ormai quasi azzerati, oscilleranno in una forchetta compresa tra lo 0 e lo 0,25% a seconda delle condizioni che si presenteranno. Dall'ultimo meeting le condizioni del mercato del lavoro si sono deteriorate e i dati disponibili sui consumi, gli investimenti e la produzione industriale sono calati, scrive l'organismo guidato da Ben Bernanke, aggiungendo: i mercati finanziari restano in tensione e le condizioni del credito si sono strette. Le prospettive per l'attività economica si sono ulteriormente indebolite. Per la Fed si tratta della nona riduzione dei tassi in 14 mesi. Il taglio è stato propiziato anche dal crollo dell'inflazione, scesa a novembre dell'1,7% su base mensile. Se il livello anomalo dei tassi resterà tale per qualche tempo e la Fed promette di usare tutti gli strumenti a sua disposizione per rilanciare l'economia, il presidente eletto Barack Obama ieri è stato più esplicito: stiamo esaurendo le munizioni tradizionali per contrastare la recessione, ma continueremo ad avere gli strumenti per aiutare l'economia. Il taglio dei tassi ha esaltato Wall Street, che ha chiuso sopra quota 4%, ma ha indebolito il dollaro in calo rispetto all'euro, che a New York ha superato quota 1,4 sul biglietto verde. Il giorno dopo, mercoledì, c'è qualcun altro che taglia. Si tratta in questo caso dell'OPEC, che rappresenta i paesi produttori di petrolio. Valeria De Rosa. L'OPEC taglia e la decisione era attesa, ma questa volta si tratta del taglio più imponente da quando il cartello dei paesi produttori esiste. A partire dal 1 gennaio la produzione di petrolio calerà di 2,2 milioni di barili al giorno. Nel maxi taglio, superiore anche alle attese degli analisti, si intravede la volontà di dare un segnale forte al mercato, in un momento in cui il prezzo del petrolio non riesce a risollevarsi, dopo la discesa senza freni, che dal record di oltre 147 dollari di luglio ha portato il greggio sotto i 50 dollari. La prima risposta dei mercati però non è stata quella che i paesi produttori si aspettavano. Una certa confusione nel comunicato su quanto fosse consistente la riduzione ha finito per innescare una caduta dei prezzi. Il prossimo appuntamento è fissato per marzo, anche se alcuni membri dell'OPEC spingono per un nuovo intervento sulle quote di produzione prima di quella data. Molto dipenderà dalle risposte dell'economia mondiale alla crisi. Torniamo dalle nostre parti, torniamo in Italia, dove per capire lo stato di salute direi piuttosto cagionevole della nostra economia, spesso e volentieri viene in soccorso l'Istat. Lunedì l'Istat pubblica i dati sull'inflazione. Le ascoltiamo allora Valentina Furlanetto. Si risparmia al distributore, ma il conto dal panettiere resta salato. Il dato sui prezzi a novembre presenta infatti luci e ombre. Come ha confermato l'Istat, l'inflazione è precipitata il mese scorso al 2,7% dal 3,5% di un anno fa. Tutto merito del crollo del prezzo dei carburanti. Il prezzo della benzina verde è sceso del 10,4% su base mensile, del 7,5% su base annua. Eppure le difficoltà dei consumatori sono ben lontane dall'essere risolte, dal momento che i principali beni di largo consumo, a cominciare dagli alimentari, continuano a registrare rialzi. Su base annua i prezzi di prodotti alimentari e bibite sono cresciuti del 4,7%. Il prezzo della pasta è cresciuto a novembre dello 0,3% sul mese precedente e del 29,8% rispetto a un anno fa. Stando a Coldiretti, gli italiani spenderanno 140 euro in più quest'anno solo per pane, pasta e derivati. Ieri invece l'Istat fa sapere che il fatturato dell'industria italiana ad ottobre è sceso addirittura del 5,9% rispetto ad un anno fa. Anche peggio vanno gli ordinativi, che nell'ultimo anno sono calati del 12,2%. Si tratta del dato peggiore dal dicembre del 2001. Questo è il commento a Radio 24 di Giampaolo Oneto, direttore scientifico ricerche congiunturali dell'Istat. Nel caso del fatturato il dato è negativo, un calo del 5,9% questo ottobre rispetto all'ottobre di un anno fa. Bisogna dire che è un dato tutto sommato in linea con quello che già avevamo tirato fuori qualche giorno fa sulla produzione industriale e dà un'idea di una situazione difficile dell'industria. Ci sono delle differenze, bisogna dire, da una parte c'è la produzione di mezzi di trasporto, che è il settore che sembra più colpito in termini di fatturato, con un calo di oltre il 18%, ma purtroppo ce ne sono anche altri che segnano cali importanti, per esempio tessile e abbigliamento meno 12%, produzione di articoli in gomma e materie plastiche meno 11%, la meccanica, che è produzione di macchine e apparecchi meccanici, con un comparto molto importante dell'industria italiana, segna un calo del fatturato del 10%. Venerdì. Occhi puntati, almeno quelli degli appassionati di calcio, sui sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Molti gli incroci pericolosi per Inter, Roma e Juventus. E forse, visto poi come sono andate le cose, direi che peggio di così non poteva andare. Urna diabolica l'ha definita il CT dell'Inghilterra, il nostro Fabio Capello, che abbiamo prestato ai sudditi di Sua Maestà. Difficile dargli torto, perché l'urna di Nyon fa sognare i quarti di finale di Champions a chi vincerà lo scontro tra Panathinaikos e Villarreal, mentre fa scontrare le corazzate d'Italia e d'Inghilterra. All'Inter tocca il Manchester United, campione in carica e a un passo dal titolo mondiale per club. Mourinho la prende con filosofia. Ci sono delle gare bellissime, mi sembra fantastico. Alla Juve toccano i vice campioni continentali, quel Chelsea che nelle coppe è diventato grande sotto la guida proprio del bianconero Ranieri. Io sono una persona che fa un lavoro straordinario e lo fa anche per tutte le emozioni che ci sono, per cui quella è una pagina della mia vita vissuta che non potrò dimenticare. Per la Roma ecco i giovani ribelli dell'Arsenal, incostanti finché si vuole ma capaci lo scorso anno di buttar fuori il Milan. Spalletti accetta la sfida. Ci abbiamo la possibilità di far vedere il nostro calcio non è inferiore a loro. Gli altri duelli, Sporting Lisbona-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Porto, Lione-Barcellona e Real Madrid-Liverpool. All'appello di questa puntata dell'ottavo giorno manca soltanto l'ottava notizia, con la quale vogliamo ricordare un attore molto amato e molto popolare anche in Italia, Dario Ceccarelli. Per tutti era Derek, che fosse anche un ispettore di polizia non era molto importante. Quello che contava era il suo modo di presentarsi, affabile, rassicurante, con quell'impermeabile un po' così, anche dopo un omicidio sanguinoso. Era un uomo tranquillo che entrava nei ricchi salotti della borghesia tedesca, ripulendo come un medico meticoloso le ferite di queste famiglie piene di sussiego, ma povere di umanità, tradimenti, invidia, rancori profondi che finivano in un delitto. E lui, Derek, con il suo fedele aiutante, senza fretta ma inesorabilmente, faceva ordine. La pistola l'usava malvolentieri, preferiva parlare, ascoltare, capire. Capire come fosse possibile che il male entrasse così facilmente, quasi per caso, nella vita di tutti, ricchi e poveri, potenti e emarginati. Figlio di un portalettere di una casalinga, diventò attore per caso, presentandosi per un posto da contabile in una compagnia teatrale. Da allora non ha più smesso, proprio come un ragioniere.